Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Arriva nelle librerie la traduzione italiana di un'autobiografia scritta nel 1907 da Arthur Conan Doyle, nel quale il papà di Sherlock Holmes si sofferma soprattutto sui suoi autori preferiti. Per comprare i primi volumi doveva rinunciare a un pasto. Si era in epoca vittoriana. Arthur Conan Doyle studiava medicina a Edimburgo e disponeva di 3 penny per un panino e un bicchiere di birra, il suo pranzo abituale. Con la medesima somma poteva acquistare un libro in un negozio di testi di seconda mano e di tanto in tanto cedeva all'impulso di obbedire ai desideri di una mente definita avida e onnivora e lasciava lo stomaco vuoto. Lo scrittore rievoca quei giorni nelle pagine iniziali di Oltre la porta magica, saggio autobiografico del 1907, nel quale si sofferma sugli autori a lui più cari, proposto in Italia con un ammiccante e del tutto incongruo sottotitolo: La biblioteca di Sherlock Holmes. Del leggendario detective non c'è infatti traccia nella lunga riflessione di Conan Doyle, che avrebbe ritenuto di cattivo gusto questa scelta fatta con l'intento di sfruttare la fama del personaggio da lui creato. Immaginando di avere davanti un anonimo interlocutore di cui lascia intuire la giovane età, Conan Doyle spiega in dettaglio le ragioni delle sue preferenze e ci offre eccellenti ritratti di alcuni maestri della cultura di lingua inglese. Walter Scott lo affascina per la sovraumana capacità di lavoro. Trascorreva notti insonni per finire gli eccellenti romanzi storici che lo hanno reso immortale. Mentre si diverte a mettere alla berlina Samuel Johnson, intellettuale con un pessimo carattere, che sostiene, senza il decisivo contributo dell'amico Boswell, sarebbe finito nell'oblio. L'eccellenza di Boswell come biografo sta nel dirti le piccole cose che desideri sapere. Quante volte leggi una biografia e rimani senza la più pallida idea della vera personalità dell'uomo a cui si riferisce? Non è questo il caso. Con lui Johnson torna a vivere, con i suoi pregi e i suoi tanti difetti. Quello di Johnson non è comunque l'unico caso di un artista sommo con pecche quasi imperdonabili sul piano privato. Cosa dire infatti di Edward Gibbon, storico bravissimo e tuttavia individuo freddo con un cervello che sembrava essersi sviluppato a scapito del cuore? O di Samuel Pepys, che compilò il celebre diario per dar libero corso a un desiderio quasi morboso di ordine mentale. Non va meglio neanche ai padri fondatori del romanzo inglese, ovvero Richardson, Fielding e Smollett, così presentati: un libraio piccolo e grasso della City, una persona dallo spirito dissoluto di sangue nobile e un rozzo medico scozzese della Marina. La smania di trasgressione è poi, agli occhi dello scrittore, una caratteristica di gran parte dei migliori poeti, con il risultato di accorciarne regolarmente l'esistenza, al punto che, ironizza, i poeti finiranno per essere elencati insieme ai lavoratori di bianco di piombo e a quelli di altre professioni pericolose. Per chi ama Conan Doyle, la parte più interessante del saggio è quella dove rivela le sue preferenze. I nomi di Edgar Allan Poe e di Robert Louis Stevenson svettano nella graduatoria degli autori di racconti, mentre tra i romanzieri elenca Fielding, Scott, Dickens e Thackeray. Misurarsi con successo con entrambi i generi è quasi impossibile, sottolinea ricorrendo a una metafora sportiva. Raramente il miglior velocista è un campione nelle lunghe distanze. Attenzione però, ammonisce, all'influsso negativo di Poe. Il padre del giallo era una creatura saturnina, priva di humor, con un amore per ciò che era grottesco o terrificante. Il lettore si deve dotare da sé di capacità mitiganti o può diventare un compagno pericoloso. Un rischio che non si corre invece aprendo un volume di Scott o di Dickens, ritenuti maestri dell'intrattenimento intelligente e di una narrativa popolare in linea con i gusti del pubblico di massa del XIX secolo. Proprio il pubblico, afferma, è l'unico giudice credibile in merito al valore delle opere. Guai invece a fidarsi di chi le valuta per professione. Sono certo che se i critici si unissero per lodare un cattivo libro o condannarne uno buono, potrebbero avere un'influenza quinquennale, cosa che succede di continuo, ma non inciderebbero in nessun modo sul risultato finale nel tempo. Sheridan diceva che se tutte le pulci del suo letto fossero state d'accordo all'unanimità, avrebbero potuto sbatterlo fuori. Non credo che nessuna unanimità di critici sia mai riuscita a far espellere un buon libro dalla letteratura. Conan Doyle dimentica che l'interesse del pubblico per Holmes lo costrinse a mantenere in vita il detective anche quando aveva stabilito di farlo uscire di scena. L'astio verso i critici è evidentemente di gran lunga superiore se sceglie di metterli alla berlina con tanta durezza. In ogni caso, oltre la porta magica, è soprattutto una lunga e appassionata dichiarazione d'amore per la parola scritta, in cui si svela l'interesse di Conan Doyle addirittura per la memorialistica militare o i resoconti di gare sportive, in particolare per gli incontri di boxe. Per lui una biblioteca è un luogo magico dove isolarsi per qualche ora dai rumori del mondo, dimenticando il passato, godendo il presente e preparando il futuro. Poi ovviamente viene il momento di uscire e di affrontare il quotidiano, ma, conclude, lo si farà con animo più lieto dopo una sosta in mezzo ai libri, immersi in storie dalle quali apprendiamo il miglior modo per risolvere i problemi con cui dobbiamo confrontarci nella vita vera. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Roberto Bettinetti, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Sulla questione bamboccioni continua il dibattito tra chi pensa che gli scarsi stipendi e la precarietà prolungata giustifichino la permanenza dei figli in famiglia ben oltre i 30 anni e chi cerca vie legali per non essere costretto a mantenere figli svogliati che sembra vogliano solo approfittare della situazione. È vera dittatura quella degli ultra trentenni che continuano a vivere in casa dei genitori? Dicono di loro bamboccioni viziati, che obbligano le madri a estenuanti cicli di lavatrici e i padri a versare assegni di mantenimento da qui all'eternità, in attesa di un lavoro compatibile con le proprie abitudini, perché così la legge consente. Dopo la rivolta di Silvano Protasoni, il padre di Gallarate, Varese, che ha rifiutato di versare l'assegno di mantenimento al figlio 19enne, ancora alle prese con la quarta ragioneria, c'è stata una levata di scudi. Protasoni ha ricevuto telefonate di solidarietà, altri padri hanno finalmente pronunciato l'inconfessabile. Non si può costringere qualcuno a mantenere un adulto che non ha voglia di lavorare o studiare. L'unica certezza del welfare italiano sembra la famiglia, però non rende autonomi e crea nei figli l'idea di un diritto senza fine. Sia per i padri separati che per le famiglie unite dovrebbe valere la regola che, arrivati giovani a una certa età, si ha il diritto di dirgli «basta, fuori», suggerisce la sociologa Chiara Saraceno. «Abbiamo una normativa molto estensiva, più di Spagna e Grecia. In caso di bisogno, il genitore è tenuto a mantenere il figlio a prescindere dall'età». Secondo l'Istat, dal 1983 al 2009 sono triplicati i 30-34enni che vivono in casa con mamma e papà. Dall'11,8% sono passati al 28,9%. Una convivenza fra adulti spesso difficile, come racconta un padre veneto. «Mio figlio ha 33 anni e non ha mai combinato nulla. La sua aggressività nei nostri confronti è aumentata col tempo. Si divideva tra bar di lap dance e richieste di soldi. Le ho provate tutte, non c'è stato niente da fare. Alla fine mia moglie e io siamo stati costretti a trasferirci in albergo». Disperati, i genitori si sono rivolti all'Adico di Mestre, associazione a difesa dei consumatori che li ha assistiti in giudizio. Il giudice ha intimato al figlio di lasciare la casa entro metà luglio, dietro un corrispettivo mensile di 2.000 euro. «Anche se io non credo che si schioderà mai», sospira il genitore. Molti sono i cosiddetti NEET, né studiano né lavorano. L'Istat stima che in Italia siano più di 2 milioni, il 21,2% della popolazione tra i 15 e i 29 anni. Nel confronto con i paesi OCSE, siamo tra quelli con la maggiore percentuale di giovani con le mani in mano. In Italia il periodo di totale inattività tra 15 e 29 anni può durare anche 2 anni. Con la Grecia abbiamo la più alta incidenza di laureati disoccupati tra 25 e 29 anni e molte famiglie vogliono liberarsene. Racconta Alessio Cardinale, segretario nazionale dell'Adiantum, che riunisce associazioni nazionali per la tutela dei minorenni nelle separazioni. Abbiamo registrato negli ultimi mesi 30 casi, quasi tutti al centro-nord. Gli estremi non sono quelli dei padri separati, ma delle famiglie unite. Come la storia di un giovane di Agrigento che ha rifiutato un posto di insegnante all'estero. La legge lo permette, spiega l'avvocato napoletano Emilia Bracco. Il mantenimento dei figli maggiorenni va onorato finché il figlio non ha l'indipendenza economica. Oggi il problema si pone anche per i bravissimi. Un figlio laureato in lettere o un ottimo grecista, quando mai saranno economicamente autonomi? Secondo Alma Laurea, 12 mesi dopo l'università, il guadagno mensile netto medio dei laureati è di 1.040 euro. A 3 anni dalla laurea raggiunge i 1.183. Duro vivere da soli in uno stato che non garantisce casa né assistenza alle famiglie. A rendere più complicate le cose c'è un altro aspetto della legislazione. Spiega Alberto Bucci, presidente della prima sezione civile del Tribunale di Roma per 15 anni. Quando, avendo un lavoro, un figlio perde il diritto al mantenimento, non è più possibile ottenerlo di nuovo. Non si possono avere ripensamenti. Un problema per i figli di separati o divorziati. Oggi, quasi sempre, l'ingresso nel mondo del lavoro avviene con contratti a termine. Ma cosa succede se, ottenuto un posto per qualche mese, un ragazzo perde il mantenimento e si trova senza reddito? Ho seguito un caso simile, un giovane con un contratto di apprendistato. Il tribunale ha deciso di lasciargli l'assegno di mantenimento perché guadagnava, ma in modo troppo precario per essere autonomo, risponde l'avvocato Laura Gaetini. La giurisprudenza è in evoluzione, spiega l'avvocato Filippo Capozio, vicepresidente di Padri Separati. Non c'è una norma sul limite di età, ma i tribunali si attestano sui 26-27 anni. Poi c'è la soglia di tollerabilità, come dice la Cassazione. Non si possono mantenere eterni fuori corso. Così un commercialista di Roma, padre di un 29enne studente di architettura, ha trovato un escamotage. Racconta il suo avvocato Carlo Cermignani, partner del Family Law Consortium di Roma. Sapendo che in realtà il figlio non voleva rendersi autonomo, il padre ha chiesto a un amico geometra di proporgli un lavoro part-time. Di fronte al suo rifiuto, ha chiesto al tribunale di non pagargli più il mantenimento. Il tribunale ha accolto parzialmente la richiesta, diminuendo da 700 a 200 euro l'ammontare dell'assegno. Avete ascoltato alcuni passaggi dall'articolo di Terry Marocco ed Elena Porcelli. Sua Santità il Bamboccione, da Panorama del 15 luglio.